quelli di una volta, perché notizia di ieri sera, queste notizie qua non ci sono più le mezze stagioni, sono quelle freschissime della settimana. Il comitato, il CIO, che è il Comitato Olimpico Internazionale, riunito a Denver ieri, ha deciso di sopprimere, pensate, la staffetta internazionale della torcia olimpica, che è un rito che non so a quanto tempo fa risalga, no? Il fatto che la torcia viaggi per varie parti del mondo, faccia da staffetta, sia un modo di affratellarsi, assorellarsi, come volete, insomma, si limiterà d'ora in poi invece ad attraversare solamente il paese ospitante dei giochi. Questo perché? Perché l'anno scorso, quando ci sono state le Olimpiadi in Cina, sapete che ci sono state un sacco di proteste, no? Contro la Cina, la violazione dei diritti umani, quindi spesso la torcia veniva bloccata, c'erano manifestazioni di protesta, a volte anche violente. Era bersaglio di contestatori, per cui questa volta si è deciso che dalle Olimpiadi di Londra nel 2012 basta, si chiude con la torcia olimpica. Ecco, per dire, fra le varie cose per cui non ci sono più le mezze stagioni. Io chiederei all'ospite di oggi, e voi sapete che la mia formula qui è questa di avere ogni sabato un ospite diverso, donna, uomo, che abbia scritto un libro, che abbia le idee e opinioni sui fatti della vita, che venga qui a commentare con molta libertà i fatti della settimana. Anna, dal suo punto di vista, questa volta c'è Anna Maria Bernardini De Pace. Ciao Anna Maria. Ciao Roberta. Benvenuta, la più grande matrimonialista d'Italia, divorzista, io non so mai bene come definirti. Dipende se è un ottimista oppure pessimista, familiarista. Familiarista. Però quello che volevo chiederti era, c'è un qualcosa che ti fa pensare che non ci sono più le mezze stagioni? Al di là del clima, no? Ma nel senso metaforico, delle cose che non sono più. Le idee della gente e l'incapacità di vedersi nell'altro. L'intolleranza, non so, di quando arriva uno di quelli che puliscono i vetri al semaforo, che immediatamente si reagisce male, cioè non c'è mai la capacità di mediare con l'altro, di capire l'altro. Questo mentre parlavi, dici... appunto, non ci sono più le mezze stagioni, perché o si è buoni o si è cattivi, cioè non c'è una via di mezzo, o si è buoni e sempre solo nell'interesse, o si è cattivi e sempre contro qualcun altro, cioè anche la bontà e la cattiveria vengono rapportate all'interesse egoistico di ciascuno. E Anna Maria è qui perché ha scritto, anzi non è ancora stato, esce tra qualche giorno, esce, no? Il primo di aprile, e non è uno scherzo. Coppia staffetta, direi che non è per niente uno scherzo, adesso lo riacchiappo che qua, perché si intitola Diritti diversi, la legge negata ai gay, che è un bellissimo libro che Bompiani pubblica appunto il primo aprile, qui abbiamo la copia staffetta, e devo dire che leggevo la prefazione di Anna Maria Bernardini De Pace, che è già molto bella, e già questo prelude, insomma, un libro molto molto interessante. Per esempio, metti subito all'inizio, nella prefazione, Anna Maria, questa frase di Confucio che dice: meglio accendere un lumino nel buio che maledire continuamente la notte. Quindi vuol dire seminare anche nel piccolo, con le proprie forze, per cercare di cambiare il mondo in senso più civile. Vuoi dire questo? A me piacerebbe molto che il mondo cambiasse anche in questo senso, anzi devo dirti che molti mi hanno criticato per aver scritto questo libro. Ah, ma come, nella tua posizione, la famiglia, le coppie eccetera, ti metti a parlare di gay? Ma scusa, ma perché i gay non fanno parte della famiglia? Non sono fratelli, sorelle, genitori, figli? È un problema sociale. Nessuno di noi vorrebbe che il proprio fratello, il proprio figlio venisse discriminato così come vengono discriminati i gay. Non è un fatto che appartiene agli altri. Dal 1992 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto che è una variante della natura umana dell'orientamento sessuale, mentre invece prima addirittura un atteggiamento psicopatologico, una malattia, e si volevano curare. Anche oggi, ieri, sui giornali si parlava del fatto che ci sono degli psichiatri che fanno le scosse elettriche per tentare di guarire gli omosessuali, ma delle cose come orrende, come nell'Ottocento, orrende. Ecco, io vorrei che la cultura e l'umanità soprattutto crescesse per capire e affrontare questi problemi. Perché meglio. Tu dici, i percorsi, come scrivi, della sessualità sono molteplici e sconosciuti, come quelli del pensiero peraltro, ma una cosa che scrivi, che trovo estremamente condivisibile, poi ognuno avrà il suo pensiero, ma insomma, tutti potremmo essere omosessuali o bisessuali se non fossimo, chi più chi meno, condizionati dall'educazione, dalla cultura, dalla religione. Certo. Se ci lasciassero liberi sin da piccoli di viverci le cose, i rapporti tranquillamente, no? Senza riferimenti schematici ma di questo sono o assolutamente convinta, anche solo il fatto che dicono tutti la parte femminile dell'uomo, la parte maschile della donna, cosa ne sai se educati alla libertà assoluta, a quell'uomo che adesso ha una forte parte femminile, in teoria non sarebbe potuto essere un omosessuale. E poi il mischiarsi delle cose, perché essere omosessuali non significa se sei una donna essere maschile o se sei un uomo essere femminile, ed è una cosa molto, molto complessa e molto ricca. Allora, il numero verde per i vostri interventi è sempre lo stesso, 800 24 00 24, come sempre qui, non ci sono più le mezze stagioni, io qui come vede Anna Maria Bernini De Pace sono piena di fogli, di cose, di ritagli, perché sono talmente tante le cose della settimana e si fa proprio, faccio un tentativo disperato di riassumere qualcosina. Però se voi avete un fatto, una notizia della settimana sulla quale volete tornare, commentare, o delle cose che stiamo dicendo qui in trasmissione, il numero verde, quindi gratuito, 800 24 00 24. Intanto alcune delle cose principali ve le lancio lì, così poi se volete riprenderle oppure se ne avete altre tra i vostri pensieri, sempre con la massima libertà. Siamo insieme fino alle 15. Allora, per esempio, ovviamente in questi giorni in primissimo piano è la nascita ufficiale del PDL, del Popolo della Libertà. Sapete che c'è la fusione tra N e Forza Italia. Oggi siamo alla seconda giornata di congresso, domani dovrebbe essere l'ultima. Poi questo dato molto preoccupante del centro studi della CGIL, dell'IRES, secondo il quale quest'anno rischiano il posto di lavoro in Italia quasi 1 milione di lavoratori. Il biotestamento, che ha avuto il via libera al Senato con tutte le varie polemiche, ora il disegno di legge passa alla Camera, e secondo il quale le dichiarazioni anticipate di trattamento, cioè insomma il testamento che si dovrebbe fare, non diventa vincolante, così, nel senso che uno esprime il proprio parere, lo scrive davanti a un notaio, però poi deciderà insomma il medico e la legge nel momento cruciale. Obama, presidente americano, che lancia una nuova strategia per l'Afghanistan, e poi ieri ha detto Al-Qaeda sta preparando nuovi attentati contro gli Stati Uniti, poi l'attentato che c'è stato in Pakistan contro una moschea Jamrud, il termovalorizzatore che è entrato in funzione ad Acerra, anche lì con polemiche e manifestazioni, insomma vedremo come va. La morte del pugile Giovanni Parisi, avete sentito questa settimana, in un incidente stradale. La pena di morte, che secondo il rapporto Amnesty per fortuna sembra sempre più vicino all'abolizione, insomma ce ne sono moltissime di notizie, la legge sulla sicurezza del lavoro che ancora però deve fare il suo iter, poi la nomina presidente della RAI di Paolo Garimberti, l'ora legale, ricordate, ve lo ricordate anche tu stanotte, Maria, che stanotte alle 2, un'ora avanti, no? Bravissima, informatissima, alle 2 di sabato bisogna spostare in avanti. E sai che cosa noto? Che soprattutto le donne sono felicissime di questa cosa, quando arriva l'ora legale, un'ora un po' più di luce in più, io vado a batterie solari, devo dire che non so, tu sei contenta? È vero, io sono cosa? Assolutamente di questo parere. Anch'io. Perché amo la luce, vivrei mai al buio. Chissà, nei paesi nordici, quando dicono che lì si vive benissimo, c'è un'altra civiltà, però sono tristi, questo sembra che sia il motivo principale. Ora, qualche interferenza tra pochi istanti da un altro pianeta. Vi ricordo il numero verde su i fatti della settimana, qual è la notizia che più vi è rimasta insomma tra i pensieri, qual è il commento che vorreste fare e quale cosa riprendere delle cose che sono successe in questi giorni. 800 24 00 24. Riflessioni da Marte. Affacciandosi sulla Terra, bisogna dire, non ci si annoia davvero mai. In tempi di crisi economica globalmente avvertita, proprio in quei frangenti in cui si dice che possono emergere le più brillanti creatività per i migliori business, nell'isola di Singapore il Parlamento ha varato il più originale pacchetto economico anticrisi, la legalizzazione della vendita di organi umani attraverso una forma di decoroso rimborso per le persone viventi che decidono di farsi espiantare un organo. Ma i prezzi, come si sa, saranno man mano determinati in base alle richieste. Questo a Singapore. In un'altra parte del globo, invece, a Strasburgo, durante la sessione plenaria dell'Europarlamento, Jean-Marie Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Front National, afferma che durante la Seconda Guerra Mondiale le camere a gas sono state soltanto un dettaglio. Non si pone allora l'urgente esigenza di provare a sentire se per caso a Singapore vi sia della materia cerebrale trapiantabile a buon prezzo? Affacciandosi invece sull'Italia, si evince che coloro che declamano il liberalismo, il liberismo e la libertà contro lo Stato oppressivo e padrone sono invece favorevoli a consegnare verso fine corsa il corpo allo Stato. Ovvero si può e si vuole disporre in libertà della propria casa, della propria attività, dei propri affari, ma il corpo non è affar mio né disponga lo Stato secondo suo desio. Due giorni fa, per la seconda volta, Charles Simon Hill, il miliardario americano di origini ungheresi, è partito per una gita nel cosmo con un biglietto dal modico prezzo di 35 milioni di dollari. Ebbene, qui da Marte ci permetteremo di consigliare caldamente agli umani di restare a far danni sul loro pianeta. Grazie. Anna Maria, tu saresti capace di rispondere in un giorno a 100.000 mail? 100.000 no, escludo nel modo più assoluto, anche se in questi giorni non sai a quante mail e a quanti messaggini devo rispondere, ma 100.000 secondo me non è capace nessuno. Guarda, perché leggevo, se non sbaglio, sulla prima pagina, non so se è il Corriere di Repubblica, in questi giorni Obama, che ha, lo sai, no, ha creato un nuovo corso, sicuramente si presenta come una persona veramente rivoluzionaria, poi vedremo nei fatti, ma già varie cose le ha fatte operativamente, ha deciso di aprire la Casa Bianca in modo più democratico agli americani e ha risposto. Pare una giornata. Sì, ma non è lui che risponde. Anche secondo cioè, me. 10.000 collaboratori, ciascuno 10 mail. Direi di sì, perché va bene essere la diacalì, essere sicuramente uno pieno di energie. Obama, abbiamo visto anche che fisico, anche col fisico bestiale che è, però diciamo che mi sembra un po' eccessivo. Però è un'ottima cosa. Io direi, Anna Maria, di sentire già di rompere il ghiaccio con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì. Al numero verde 800 24 00 24 c'è Silvia da Montecatini. Silvia. Sì, buongiorno. Buongiorno a te, Silvia. Senta, io sono una maestra d'asilo, ho 44 anni. Sì. E volevo ricordare una cosa molto, cioè di quelle che lei non ha ricordato, perché non è proprio degli ultimi giorni. Comunque volevo parlare dei randagi di Modica. Ah, la settimana scorsa comunque. Sì, sì, la settimana ne scorsa, abbiamo parlato, che non sì. È proprio una notizia dell'ultimo minuto. E volevo ricordarlo perché io mi occupo un po' del canile della mia città. Di Montecatini, quindi. Sì, di Montecatini Terme. Ho fatto un po' di volontariato. La nostra, devo dire, è un'isola felice perché il canile funziona, la cultura dei cani è abbastanza avanzata, per cui non ci sono grosse problematiche. Però volevo dire che a me dispiace molto quando si mette in prima pagina la voce cani killer, perché i cani, cioè è colpa sempre dell'uomo se succedono determinate cose. Il cane è sempre stato considerato il miglior amico dell'uomo, non a caso. Certo che cani tenuti, la sterilizzazione è la cosa più importante per non creare sempre continuo problema del randagismo. Cani in gruppo, in branco, che non hanno da mangiare, che si scivano, che si incattiviscono, morti, quindi si incattiviscono, fanno branco e poi vengono, quindi sono doppiamente vittime perché vivono una vita randagia, senza una carezza. Poi diventano aggressivi anche con l'uomo e purtroppo quando accadono cose terribili, io non vorrei mai che accadesse a un bambino della mia scuola una cosa del genere, però a quel punto vengono eliminati perché sono cattivi. Purtroppo però la colpa è dell'uomo e non dimentichiamoci, certo, che la civiltà di un popolo si vede proprio da questo, da come trattiamo i nostri animali. Io non sono esagerata, non sono neanche di quelle vegetariane strette, mi sembra di essere abbastanza moderata. Cioè vuol dire, però, non sei un integralista, però ti sembra di poter però nel 2009 veramente queste cose sono allucinanti. Arrivano i soldi per i canili, arrivano i soldi per tutte le iniziative, dove vanno a finire? Guarda, è una strana coincidenza, Silvia. Intanto dico, fanno branco gli uomini in senso maschile, figuriamoci i cani, quindi ecco. Però è una strana coincidenza perché Anna Maria Bernini De Pace, proprio arrivando qua, non mi ricordo in merito a cosa, 20 minuti fa quando è arrivata, si è messa a parlare di questa cosa dei cani, diceva esattamente le cose che stai dicendo tu. Quindi ti ringrazio per questa cosa. Anche no, se... no, io ringrazio voi di avermi dato la possibilità di parlarne. Io ho tanti bambini a scuola, tanti hanno preso un cane perché il bambino superava determinati problemi. Allora in questi casi viva i cani. Poi si lascia. Bisogna essere così. Però responsabili della vita finché dura la vita del cane. Sì, è una responsabilità e quando si prende, lo ricordo, lo si prende per sempre. Grazie Silvia. Anna Maria, visto che stavi commentando già prima di Silvia, allora no, mi dicevi anche certo. Tu. Intanto, per quanto riguarda questi cani, questo branco di cani randagi, stanno facendo delle indagini per cercare di risalire ai proprietari dei cani. Anche se bisogna dire, io ho detto l'altra volta, sono più furbi evidentemente, più imprendibili dei peggiori latitanti mafiosi, perché che difficoltà hanno fatto, no, nel tempo a prenderli, perché è un po' che questo problema, ma certo, si trascina. Questo è vero. Poi però ha perfettamente ragione la signora quando dice che la colpa è degli uomini. I cani hanno la vita che noi scegliamo per loro, non sono selvaggi, sono nati tra di noi. Nel momento in cui noi scegliamo una vita per una persona o per un cane o per un animale, ma oserei dire anche per i pesci rossi che si vincono al Luna Park, certo, devi avere il senso di responsabilità per crescerli. Io ammiro moltissimo le mie figlie che ai loro figli insegnano la responsabilità affettiva, non solo verso le persone ma anche verso gli animali. Per esempio mia figlia ne ha 5 di cani e i miei nipotini che hanno 8-9 anni se ne occupano, ma come si occupano dei gatti, dei pesci rossi e di tutto, anche perché non dobbiamo dimenticare una cosa, che non esiste un cane al mondo che tradisca il suo proprietario. Hanno quindi una capacità di amore e dedizione che uomini e donne non hanno, che invece sono tutti proiettati nel tradimento. E tu ne sai qualcosa? Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano sempre con voi fino alle 15. Vi ricordo poi invece domani, per chi volesse ancora essere in mia compagnia, in una trasmissione diversa, dalle 19 alle 19.30 Storielle, ogni volta con un protagonista diverso che racconta un po' la sua storia. Ma oggi qui c'è Anna Maria Bernardini De Pace che sta pubblicando il libro tra pochi giorni, Diritti Diversi, quindi in anteprima assoluta. No, è uscita una cosa sul Corriere della Sera perché la Bonpiani, no? Diciamo come mezzo, come però, mezzo radiofonico, certo, qui a Radio 24. Diritti Diversi, la legge negata ai gay. Numero verde 800 24 00 24, c'è Germana da Roma. Germana. Eccomi qui. Eccoci qua anche noi. Volevo solamente dire una cosa sul fiaccolo Limpionica. Sì, che dicevo all'inizio che non girerà più il mondo, insomma, sì, questo rito sì, sarà eliminato. Il problema dell'anno scorso della Cina era ben altro, quindi non è stato utile eliminare questo simbolo che è veramente simbolo di unione e di pace, perché la Cina ha altri problemi e lì dobbiamo operare in altri settori. C'è una dittatura, c'è la pena di morte, ci sono altre cose da togliere, tra virgolette, no? E non certo questo simbolo, che era veramente un simbolo che, andando per tutto il mondo, portava veramente metaforicamente sì, era un modo. Forse sono toccata personalmente, dico, che peccato. Cosa hai fatto tu, Germana, di sport? No, io faccio tennis e quindi so bene che essere sportivi vuol dire ben altro che quello che è successo e quello che succede in Cina e quello che succederà finché il resto del mondo non prenderà altri tipi di provvedimenti. Effettivamente sì, è un dispiacere questa cosa, sì, forse anche a me è dispiaciuto molto, perché si sa benissimo che il problema sta in altri settori, non certamente in quello sportivo. Grazie molto, Germana. Senti, a Roma dimmi che tempo c'è, che poi forse riusciamo a sentire il colonnello Giuliacci se non è al supermercato dal dentista. Pronto? Germana, a Roma che tempo c'è, visto che a Milano qua è grigio? Cupo anche qua. Volevo ringraziare la De Pace, perché da donna omosessuale devo dire che sono molto contenta di aver sentito quasi per la prima volta sentirmi dire che sono anche sorella, zia, cognata. Grazie signora. Questa è una bellissima cosa, veramente è bello, perché normalmente siamo catalogati già in una scatola, invece no, siamo... anche zie, siamo cugine, nipoti, certo, siamo tutto, figlie, siamo tutto. Quindi è per questo che combatto, io, signora. Dobbiamo accendere tanti lumini nella notte. Questo io lo accendo personalmente facendo il mio dovere, e il mio dovere nel senso anche sociale sotto questo aspetto, più il suo, più quello della trasmissione che ne sta parlando, anche se si è agganciato in un altro argomento, però questi sono i lumini decisamente che sono molto utili per tutti. Germana, allora adesso adesso non te ne devi andare, però Germana, scusa, adesso. No? Parliamo allora ancora un po', visto che sei così in tema, visto che il tema è anche quello del libro di Anna Maria Bernardini De Pace, rimaniamo ancora un po' insieme. Tu sì, posso... perché lo dico personalmente con la mia famiglia. Ma con la tua famiglia è tutto tranquillo con la tua famiglia? Sì, è questo che dico, sì. Proprio perché la mia famiglia è talmente tranquilla che io, avendo 10 nipoti, sono anche zia. Bello, una famiglia d'amore allora. Avendo una cognata, avendo una sorella, c'è un cognato, e poi c'ho la, c'è mia mamma, c'è gli zii, c'ho i cugini che tutti sanno, e quindi non è una... Ma una dimmi una cosa, Germana, sei felicemente fidanzata? Sì. Ah, questa è la cosa migliore, insomma, da poter dire. E poi ecco anche questa naturalezza nel portare la propria compagna in qualsiasi contesto, questo è. E noi siamo punti, secondo me, siamo inseriti nella società, devo dire a volte con dei pregiudizi, e però sta molto anche a noi fare un lavoro, tra virgolette, un lavoro interno alla famiglia, tra gli amici, no? Nella scuola, perché ha la possibilità. Nel sociale dobbiamo. Nel proprio piccolo, anche perché, Germana, mi fai venire in mente una frase bellissima che diceva Gandhi: siate voi il cambiamento che volete trovare nel mondo. Sì, no? Sì, proprio. Ne sono convinta, anzi, qualche volta mi capita di avere qualche discussione con le mie amicizie omosessuali, no? Che ringraziando il cielo io ho un'ampiezza di amicizie che figli contro figli, etero, insomma. Spazia molto. Ecco, e quindi questo lo dico spesso, no? Che fermarci solo non dico nel lamentarci, perché per carità sono tutte cose giuste quelle che noi diciamo e facciamo, io sono la prima, però noi stessi come singoli non bastano i movimenti, non sono sufficienti, nel nostro piccolo singolarmente dobbiamo operare. Germana, voi ogni tanto, tu e la tua compagna, vi date un bacino così per strada? Cavoli, io c'ho una certa età ho già 50 anni, e quindi quando si vedono già mano nella mano già guardano le mani. Ma questa è politica, ecco, già anche questa è politica, sì. Fare politica, perché farlo pacificamente. Due adolescenti donne che si prendono per mano, niente, ma due cinquantenni già è un altro messaggio. Ma e oltretutto l'omosessualità femminile è quella che non viene fuori. Non viene fuori, non viene perdonata, signora, esatto, perché nella società maschilista non si accetta che la donna si ribelli all'uomo a tal punto da non avere bisogno di lui. Di lui, perfetto, questo è un ragionamento che fila liscio. Io avendo 50 anni, insomma, la mia epoca è diversa dall'adolescenti di oggi, no? Sì, oggi per fortuna è un po' più aperta, però il problema... Anche capire che c'è stato dietro un qualche cosa, un lavoro... No? Certo, brava. Germana, io ti ringrazio moltissimo. Grazie, grazie allora del tuo intervento. Così grazie e tanta felicità a Germana. Allora, Anna Maria, visto che ci riporta sull'argomento del tuo libro, e visto che queste sono notizie della settimana, anche queste, te ne sto guardando qualcuna. Per esempio, il Senato del Vermont negli Stati Uniti, che mi pare che ci siano il Massachusetts, la California, che però ancora bisogna decidere se vengono annullati i matrimoni che ci sono stati, referente. E il Connecticut, se non sbaglio. Sì, dove sono legalizzati i matrimoni omosessuali. Adesso nel Vermont il Senato ha approvato 3 giorni fa un provvedimento che permette alle coppie dello stesso sesso di sposarsi. La misura è passata per acclamazione al Senato, adesso deve passare alla Camera, però c'è il governatore del Vermont che ha detto: porrò il veto, userò il mio diritto al veto per fermare la legge. Poi c'è un'altra cosa invece che riguarda l'Italia. Hanno suscitato, leggo da un'agenzia dell'ANSA, reazioni trasversali di segno positivo alcune affermazioni del nuovo vescovo di Bolzano, che si chiama Karl Golzer, sulle coppie gay. Alla rivista Jesus aveva detto che le persone conviventi dello stesso sesso avranno sicuramente bisogno di una qualche tutela giuridica, che è un po' il tema. Sì, anche se io in modo provocatorio ma assolutamente convinto leggo la nostra Costituzione in modo tale che, a mio parere, il matrimonio gay oggi si potrebbe fare. Cioè sarebbe già contemplato. È già contemplato, perché nella Costituzione non c'è mai scritto che per sposarsi si debba essere un uomo o una donna. L'articolo 29 dice che protegge la famiglia, non dice proteggo l'uomo e la donna che fondano la famiglia. Non si parla mai né di uomo né di donna, quindi potrebbero benissimo essere un uomo e una donna. È vero che un uomo è un uomo e una donna è una donna. È vero che nel codice civile si parla di marito e di moglie, però che il marito sia un uomo e la moglie una donna è una convenzione sociale che non trova la sua ragion d'essere sicuramente nella Costituzione. Però ovviamente in Italia è tutto più difficile, perché noi siamo la culla, il salotto, non so come chiamarlo, dello Stato Vaticano, e sappiamo che la Chiesa è sempre stata contro l'omosessualità. sessualità, e così come l'Islam peraltro. Con delle aperture più dal basso invece, no? Magari non, no, le altre ci gerarchie. Sono dei preti straordinari, ce n'è uno che ha scritto addirittura Omosessualità e Vangelo, e che sarà alla presentazione del mio libro il 2 di aprile al Corriere della Sera. Ha scritto Omosessualità e Vangelo, è una persona che affronta la religione come accoglienza, come amore. Del resto, una religione che dice ama il prossimo tuo come te stesso, non... ha detto tutto. Ecco, ha detto tutto. Mentre noi ci siamo sempre, Roberta Giordano qui con voi fino alle 15. Oggi ho come ospite Anna Maria Bernardini De Pace, la più nota matrimonialista italiana che ha scritto Diritti diversi, la legge negata ai gay. Ne abbiamo anche un po' parlato, visto che c'era anche un'ascoltatrice che è andata sul tema vivendolo personalmente. Tante sono comunque le notizie della settimana, di attualità, quelle su cui volete soffermarvi con libertà. Il numero verde 800 24 00 24. Per esempio Enrica da Viterbo. Chi ci dice, Enrica? Buongiorno, volevo dire che sono d'accordo con la Bernardini De Pace, perché ovviamente questo è un paese in cui si fa tantissima legislazione, si continua a legiferare su tutto, poi però mi sembra che qui a mano le libertà individuali sono sempre in diminuzione, tant'è che col testamento biologico mi sembra che andiamo proprio anche in questa direzione. Un'altra cosa che volevo dire, sì, è che effettivamente l'omosessualità femminile non viene mai fuori. Io stessa è da pochissimo tempo che ci faccio caso e adesso comincio ad accorgermi che ci sono delle persone che è presente in mezzo alla gente, al supermercato, per le vie, l'omosessualità femminile. Giuro che prima non me ne ero mai accorta. Beh sì, era un po' più nascosta, però c'è, come diffusissima, certo, da sempre. Sì, però probabilmente prima le donne stavano molto ben attente a... Anche per una questione di incolumità probabilmente, le donne, probabilmente, no? Molto sì, sì. Poi se ho ancora tempo, certo, vorrei aggiungere una cosa a proposito dei cani, due parole. Sì. I cani, la responsabilità dei cani è quello che è successo in Sicilia, esclusivamente degli amministratori e di chi ha permesso che procura e tutto quanto, che tutto questo succedesse, perché ci sono delle normative specifiche. Io sono un veterinario, anche se direttamente non mi occupo di canini, ci sono delle normative specifiche da tanti anni che prevedono che i comuni si occupino dei cani randagi. I modi per occuparsene sono tanti, con tanti e con pochi soldi. Probabilmente in questi posti non hanno mai fatto niente per i randaggi, in nessun genere. E poi un'altra cosa che volevo dire riguarda, non so se avete sentito ieri sera, le critiche a Saviano che cominciano a venire da diverse parti, da registi, altri giornalisti. Sì, altri mercoledì, giornalisti. Allora scusami, ricordo un po' l'antefatto, Enrica, perché sì, mercoledì c'è stato questo speciale su Rai 3, sì, con lo scrittore appunto Saviano, che si chiama Gomorra, sì, e ha avuto milioni di ascoltatori, sì, nel senso che hanno parlato di ascolti da reality, no? Sì, allora io dicono, ho iniziato, poi ero talmente stanca che dico la verità, non ce l'ho fatta a seguire tutto. Io stavo lavorando, quindi ho seguito pochissime cose. Poi il giorno dopo ho sentito di queste critiche, anche ieri sera ascoltando Radio 24, la trasmissione di Cruciani, di queste critiche che sono arrivate a Saviano. Però quello che io vorrei dire è che vorrei che tutti leggessero quel libro, perché al di là di quello del caso, è un libro bellissimo, scritto bene. Non ho visto il film, però il libro vale veramente la pena di leggerlo. Forse sì, qualcuno lo accusa di fare un po' di questo libro, sì, di questo successo che ha avuto la sua professione, di essere come professionista l'antimafia, insomma, no? Però, sì, comunque... ma meno male che c'è lui che lo fa, insomma, in questo paese. Meno male che c'è qualcuno che tira fuori queste cose, perché mi sembra che ultimamente, cioè, non lo so, io sono molto scontenta del paese in cui vivo ultimamente. Non mi piace più per niente, devo dire questo, ecco, soprattutto. Grazie Enrica. Comunque, insomma, se ha avuto tutti questi ascolti, vuol dire che in Italia nella TV, anche se si dà qualcosa di diverso dai reality o da programmi magari considerati banali, l'ascolto, le persone reagiscono positivamente. Grazie Enrica, vuoi dire qualcosa Anna Maria? Sì, che la signora ha ragione in tutto quello che ha detto. purtroppo siamo in un paese in cui c'è molto conservatorismo, molta paura di esporsi, molta paura di affrontare le battaglie. Allora, se ciascuno, come diceva prima quella signora, facesse da sola, come dice anche Gandhi, cioè se qualcuno il cambiamento lo cominciasse da sé, allora forse questa energia si spargerebbe in tutto il paese. Ma noi purtroppo siamo abituati a occuparci del nostro piccolo, a non affrontare anche i problemi degli altri. Noi stiamo comodi, tranquilli a Milano, più o meno non succede niente, non ci preoccupiamo della vita tragica che si fa nei paesi dove la camorra impera. E così come per i gay, siamo felici o infelici eterosessuali, non ci rendiamo conto del dolore nel quale vivono tanti gay che hanno paura, che hanno, sono costretti a mettersi un burka per poter lavorare, perché è facile lavorare nella moda essendo gay, ma chi vuole fare il professore o chi vuole andare a lavorare in banca deve fingere, perché ha paura del pregiudizio, dell'aggressione e della persecuzione. Sentiamo il numero verde 800 24 00 24, una cosa straordinaria di oggi, che stanno chiamando tutte donne, tutte donne. Annabella da Pisa questa volta. Annabella. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Che bellezza parlare con voi finalmente. Sì, un piccolo ringraziamento all'avvocatessa, perché in poche parole ha detto i soldi ci sono, inerenti all'argomento cani. Ah. I soldi ci sono per i canili e per tutto il resto. Dove vanno a finire? Infatti noi vediamo nei vari documentari, in televisione, eccetera, e argomenti, questi lager, canili lager, di cui arrivano un mare di soldi, e queste povere bestie sono soltanto affamate, assetate, malate, si sbranano fra di loro. Allora ci dovrebbero essere delle leggi, ma non la galera o che cosa, o le condanne, che tanto lasciano il tempo che trovano, delle grandissime multe pagate immediatamente, sequestro della casa, della macchina, anche perché della tasca, della la tasca spaventa sempre, insomma, dice. Ecco, perché se li tocchiamo nei soldi, queste, forse questa tratta dei cani dell'est non è una cosa di oggi, sono già 20 anni che arrivano i pulmini con questi animali più morti che vivi. Anche queste persone dovrebbero avere dei gran sequestri immediatamente, e forse qualche cosa si muoverebbe. Invece finché gli ufficiali di finanza vanno, fanno carte, però non si arriva mai a un dunque. Io ho attualmente il mio 61esimo cane adottato in vita mia, tutti i cani ho abbandonato. È la somma totale della tua vita. Nel sacchetto della Coop in giro, buttati per strada. Il mio 61esimo cane. Senti, ma dicevo il totale nella tua vita, non che ne hai 61 tutti insieme. No, però ne ho avuti impegnativo. Anche 25 tutti insieme. Oddio, erano trattati benissimo. Ah, beh, sei lo spazio con un adeguato. Di terra, tutto ricentato, erano liberi entrare, uscire. Ma non, io non voglio parlare dei miei cani, voglio parlare dei cani in genere. Le strutture ci sarebbero, i soldi pure, dobbiamo andare alla fonte di questa gentaccia che tiene male i cani. Dopodiché, certo, fra un bambino morto perché viene assalito da cani randagi, eccetera, non vorrei essere nei panni di questa mamma. Certo. Però pensiamo un attimino anche a queste bestie. No, beh, se si pensa come si deve, poi ovviamente non si crea poi il problema. Grazie Annabella da Pisa, e vorrei sentire invece sempre il numero verde, al quale potete chiamare con libertà, appunto, lo ricordo ogni tanto per commentare i fatti della settimana o le cose che vengono fuori poi qui in trasmissione. Il numero verde è 800 24 00 24. Da Milano c'è Marina. Marina. Buongiorno. Buongiorno, ti stai godendo anche tu questo grigiore milanese, che però sento che c'è anche a Roma e probabilmente anche altrove. Quando ando verso il lago è ancora più nero, verso il lago Alecco. Vai a prendere pioggia? Sì, però esco un pochino da Milano. Senta, io volevo dare la mia piccola testimonianza per quanto riguarda gli omosessuali. Sì. Allora, io ho quasi 50 anni. Io non mi è stato insegnato da piccola, però sono non mi è stato da parte dei miei genitori dicendo no, quelli lì sono omosessuali, sono peccatori, però non so, perché non ho questo ricordo, però sono cresciuta con è una cosa che non va bene, peccaminosa. Beh, intorno, sì, con la società, ecco, insomma, di là dei genitori. E ho questo riferimento che tanti anni fa mio marito aveva una assistente che era omosessuale e rispettavo la sua decisione, lei decisione insomma il suo orientamento, non la guardavo in tedesco. E conoscevo anche la sua compagna e dopo tanti anni un giorno andai in ufficio da mio marito e la vidi piangere e ho detto ma perché piangi Concetta? E lei mi dice piango perché forse Giusy molto probabilmente mi sta tradendo. E lì ho capito, ma dico all'età quasi di 30-35 anni, non mi ricordo, ma comunque tanti anni fa, che c'era amore tra di loro e non era una cosa peccaminosa. Certo. Beh, certo. Allora volevo, forse con, io ho due figlie, una di 28 anni e una di 16, magari quella di 16 crescerà, anche perché in casa se ne rispetta pienamente, abbiamo amici che sono omosessuali e non vengono assolutissimamente ma non l'avrebbero penso neanche fatto i miei genitori, ma però si cresceva così. Tanti anni fa, io dico 40 anni fa perché avevo 10 anni, perché non c'era questa educazione. Ora è molto più aperta, io li rispetto, tanti amici, volevo dire che fra magari Carolina, la figlia piccola, quella che ha 16 anni, cresce con una mentalità molto diversa dalla mia e avranno fra 10 o 15 anni vita molto più facile queste persone. Secondo me. Beh certo, il mondo, io dico per fortuna, cambia insomma e poi riconoscere i diritti a delle persone non significa levarne ad altre, anzi il diritto dovrebbe essere ampliato, non appannaggio esclusivo di alcune categorie, mi sembra. No, moltiplicato come l'amore. Il segreto di capire gli omosessuali è proprio in quello, il sentimento ce li hanno tutti, l'amore è neutro. Poi che si orienti verso una persona dello stesso sesso o verso un'altra non è importante, l'importante è come si vive il sentimento. Anche se quello che dice la signora è vero, oggi i giovani vivono in modo diverso, ma gli episodi di intolleranza dei giovani, dalle agenzie, e sono tutti giovani, io mi chiedo come siano educati questi giovani a perseguitare, a picchiare, a uccidere, abbiamo visto, perché poi un altro problema grossissimo è quello dei transessuali, hanno problemi giuridici, medici, psicologici e nessuno li aiuta. Addirittura per un anno loro, prima di cambiare sesso con l'operazione, devono travestirsi, cioè devono vestirsi così come diventeranno, cioè un uomo si veste da donna e una donna si veste da uomo. Se li ferma un poliziotto possono avere una multa, perché ci si può travestire solo ed esclusivamente nel periodo in cui il sindaco autorizza il travestimento, tipo carnevale. Che è una roba un po' bizzarra. È una roba un po' bizzarra, ma è autentica, perché ancora vige un decreto del 1931 che non è stato abolito. Neanche la libertà di abbigliamento. Insomma, no, parte non c'è neanche quella. Vabbè, insomma, quindi attenzione Marina a non portare la cravatta, che però in realtà poi negli anni 80 si portava molto anche dalle adolescenti, mi ricordo, io ero adolescente. Marina, ti ringrazio allora per questa... tanti auguri per gli omosessuali, un bocca al lupo. Grazie, ciao Marina. Prego, di una vita più facile, arrivederci. Per grazie. Tutti. 800 24 00 24. Allora, visto che ci riportano ancora sul tema del tuo libro, ma su notizie poi della settimana, Anna Maria, un'altra notizia che stavo guardando è questa, una sentenza della Cassazione del 26 marzo, secondo la quale infrange il dovere di fedeltà il marito che dopo molti anni di matrimonio intraprende una relazione omosessuale andando a vivere con il nuovo compagno, perché evidentemente quest'uomo senza successo, questo Pierino P, ha sostenuto innanzi ai supremi giudici che la relazione omosessuale non è paragonabile a un tradimento vero e proprio. Io fossi stato il compagno di quest'uomo, sì, l'avrei mollato subito, anch'io. Dico scusa, allora stai con me ma non la ritieni in relazione. Probabilmente furbescamente, tu te ne intenderai, forse per evitare l'assegno mensile alla moglie, perché la poteva essere accusato lui della colpa della... No, ma se lui è accusato di colpa non è che doveva pagare di allora più, è che ha avuto semplicemente vergogna, non era un omosessuale coraggioso. Ci sono anche tra gli omosessuali, come tra tutti gli uomini e tutte le donne, i coraggiosi, oppure l'avvocato, non lo so, non so chi non sia stato coraggioso. In realtà la Cassazione ha sempre detto che è colpevole della frattura coniugale chi col suo comportamento ha dato direttamente motivo della rottura affettiva. che sia una relazione omosessuale, una relazione eterosessuale, un tradimento, per cui se quel tradimento è stato il motivo della rottura, deve essere dichiarato colpevole. Difendersi col fatto di una malattia, veramente, mi sembra. Poi, a meno che non fosse stato di Luca era gay, come dice Povia, quell'altra cosa. Tante polemiche anche lì, ma ormai le abbiamo archiviate. C'è Marco da Lucca, il primo uomo oggi, al numero verde 800 24 00 24. Accogliamo Marco quindi con grande entusiasmo, sebbene ovviamente con molto piacere tutte le donne che sono state finora, che di solito sono un po', è una presenza inconsueta così numerosa. Marco, buongiorno. Buongiorno. Volevo portare una considerazione riguardo ai cani anch'io. Sì, allora anticipiamola, Marco, e poi ci risentiamo subito dopo la viabilità. Quindi vuoi parlare dei cani anche tu? Sì. Sì. Di nuovo insieme Roberta Giordano, sempre con voi, accompagnandovi fino alle 15, e con me Anna Maria Bernardini De Pace, nota notissima matrimonialista, ha scritto Diritti diversi, la legge negata ai gay. Ho visto che è un argomento che ha attirato molte testimonianze, telefonate, questo ci fa piacere ovviamente. Il numero verde è sempre lo stesso, 800 24 00 24. C'è Marco, allora stava cominciando a parlare Marco da Lucca, stavi parlando di cani anche tu, Marco, evidentemente è un argomento che sta molto a cuore. Abbastanza. Sono d'accordo anch'io sull'amore agli animali, non solo ai cani, agli animali in generale. Però ritengo, specialmente per i cani, si sia passato un attimino il segno. Mi spiego. Nel passeggiare per le vie e le città mi trovo spesso ad incontrare proprietari e proprietarie di cani che imbellettano i loro animali in maniera, secondo il mio modesto parere, eccessivo. Cappottini, sciarpe, cappellini. Ho visto più volte addirittura passeggini, carrozzelle col canino all'interno. Allora, non bisogna dimenticarsi che il cane, piccolo, grande, eccetera, è sì nato tra noi, ma nel suo DNA è pur sempre un animale. Quindi, come a volte accade all'uomo, la sua natura primitiva, vuoi per induzione o per altre motivazioni esterne, riemerge. E non è concepibile, secondo il mio punto di vista, trattare degli animali come esseri umani, o meglio come bambini. Magari quei soldi per quell'abbigliamento, se veramente c'è un amore smodato per i cani, li donassero ai canili, forse sarebbe più amore questo rispetto a snaturare, pur volendoli bene, un animale che ci fa compagnia e ci tiene, insomma, compagnia. No, ho capito, di non ridicolizzarli, ecco, questo volevi dire, Marco. Quindi non, insomma, se il cappottino serve per coprirli e ripararli, un conto, se serve un po' per agghindarli un po' da carnevale, effettivamente, esatto, la cosa dice. Non eccessivamente. Poi l'ultima parentesi, sì. Mi volevo complimentare anch'io con Saviano, è una persona che io non conoscevo direttamente, perché non l'avevo visto così specificatamente sullo schermo. Spero che ci siano sempre più persone come lui a illustrare come veramente vanno le cose e a porci sull'attenti per arginare questi cancri che vogliono mangiare l'Italia. Grazie, grazie Marco. Adesso darei la parola a Giovanna, quindi un'altra donna, oggi è stato un record assoluto, sì. Una marea di donne. 800 24 00 24, sempre il numero verde. Giovanna da Monza. Sì, buongiorno. Buongiorno a te, Giovanna. Senta, io sono una casalinga qualunque, anziana, però perché dire qualunque una cosa. Sei tu e quindi sei tu. Sull'omosessualità, sì. Io non giudico nessuno, però dico che le cose contro natura sono brutte. Perché contro natura, certo, signora? Perché se siamo stati fatti in un certo modo, uomo e donna, ci sarà un motivo. Questo fatto qui, io ripeto, non giudico, però mi fa un'impressione brutta la mia età, proprio una cosa contro. Senti, ma Giovanna, ma secondo te l'omosessualità esattamente che cos'è? Cioè, in cosa consiste? È il fatto che due persone dello stesso sesso facciano sesso, insomma. Ecco. Questa cosa ti disturba, dici, mi che due donne insieme o due uomini insieme? Non so se perché sono anziana, non so, i miei tempi erano diversi, però sono sempre cose contro natura, secondo me. Però a me disturba anche, come dice lei, per esempio, se due persone di sesso diverso fanno sesso senza amore. Se lei pensa all'amore, forse la vede in modo diverso. Parta dall'amore, poi quello che si fa in camera da letto è un dettaglio. Ecco, però almeno non farsi troppo vedere, esibire, ecco, almeno quello. Anche quelli normali non dovrebbero esibirsi come fanno sì, per le questa strade. È una regola, diciamo, di buon gusto generale. Ecco, un bacio, non una so cosa. Se perché sono vecchia, ma mi dà quell'impressione lì orribile di una cosa proprio contro natura. Scusate. Però, Giovanna, ma ognuno. Però il contro natura, anche su così. Chiarirsi sul concetto di cosa è in natura e cosa no, allora potrebbe essere contro natura anche guarire il cancro, perché in realtà sarebbe previsto che quando uno si ammala, insomma, qualche anno fa, un po' di anni fa, doveva morire per forza di varie malattie. Quindi che cos'è la natura e cos'è il contro natura? Forse se tu ne conosci una donna o un uomo omosessuale, Giovanna, ma proprio conoscerli a livello di amicizia li conosci? No, li conosco bene perché sono amici di mia nipote, ma io non dico niente, non giù per amor di Dio, facciano quello che vogliono. Però mi dispiacerebbe se in casa mia ce ne fosse, dico la verità. Se sapesse con che dolore vivono tanti che hanno paura di essere giudicati, come per esempio no, sta giudicando lei, e vivono nel dolore. Però mi sembra proprio una cosa innaturale. Sì, ma però questa cosa bisogna smentirla, perché è la natura che li ha fatti così. E per natura è una variante genetica naturale, anche il transessuale. Ma come adesso ce ne sono tanti, una volta ce ne erano così? No, adesso se ne parla. Adesso se ne parla, Giovanna. Prima addirittura, adesso sai che ancora in tanti paesi del mondo c'è la condanna a morte o comunque sette, la tortura, in sette o la paesi del mondo. Però ecco. Vedere due uomini o due donne che si baciano sulla bocca, scusate. Ma io lo trovo comunque molto bello, perché sì, con un mondo così violento, con un mondo così cattivo, con un mondo così privo di amore, il vedere due persone che si baciano con affetto, con che si abbracciano, che siano due donne, due uomini, un uomo e una donna, a me mette felicità, non lo so. Sì. Vabbè, allora sono sbagliata. No, già non sei sbagliata. Secondo me magari è questione di rifletterci, ma ognuno in libertà. Così. Certo. L'importante è non impedire agli altri di vivere i loro sentimenti. Grazie Giovanna, grazie comunque. A voi. Grazie mille. Giovanna 800 24 00 24. Io direi di sentire a questo punto il mio fiore all'occhiello, che è Valeria Della Valle, linguista della sapienza, che ogni volta comprimo negli ultimi 57 secondi della trasmissione, forse qualche secondo in più c'è. Valeria, ciao Valeria. Spero. Senti, a parte che abbiamo toccato tanti argomenti, anche se c'avevo in mente una cosa da chiederti in particolare, ma se poi tu vuoi spaziare, diciamo, nei 67 secondi che ci sono, puoi farlo. Questo termine del andiamo un po' sui termini esterofili, no? Governance, che non si capisce se è una via di mezzo tra l'inglese e il francese. Però ho letto in questi giorni, la RAI ha bisogno di una nuova governance, finalmente. E poi prima bozza intanto... per la governance degli atenei per quanto riguarda l'università. Certo, si usa molto nelle pagine dei giornali e anche a livello politico. È una parola inglese, anche se è arrivata attraverso il francese. Che cosa ha di buono e che cosa ha di cattivo? Allora, intanto, che cosa vuol dire? È l'insieme delle procedure che regolano la gestione, il governo di un appunto, una società, un'istituzione, un'università, eccetera, eccetera. Chiamandola così, per il comune cittadino non è chiarissimo di che cosa si tratti. Sì. Ecco, questo è quindi qui le cose non vanno molto bene, no? Tutte le volte che si usano parole straniere a livello di discorso politico, insomma, perché dire social card o family day, eccetera, eccetera. O anche bene. Il premier, ma io dico sempre il presidente del consiglio. Infatti, ne potremmo tranquillamente fare a meno. In questo caso il problema è un po' più complesso. Tra l'altro l'Accademia della Crusca ha fatto una sua proposta di usare governanza, che è una parola, immagino già che a molti non piaccia, però è una parola formata in maniera del tutto regolare, quindi una parola nuova ma che potrebbe essere accettabile. Oppure il problema se l'è posto anche la Commissione Europea, che ha dovuto tradurre, oppure usare la parola antica già esistente, governamento, oppure arrenderci e usare governance. Ora, come sempre nei fatti della lingua, così come anzi vorrei fare un'analogia con l'argomento interessantissimo del quale stavate parlando, no? Insomma, non ci possono essere imposizioni, sarà l'uso lentamente, l'evoluzione della società, del parlare, a determinare, a stabilire quale sarà il termine che l'avrà vinta, in un certo senso. Ecco, di più non posso dire, perché per fortuna infatti nei fatti linguistici non si può imporre niente. chi vivrà vedrà. Allora, grazie Valeria Della Valle. Prego, libertà in questo. Grazie Valeria, grazie alla parte tecnica a Giacomo Spunta, a Gigi Borghi che ha fatto assistenza in regia, Anna Maria Bernardini De Pace con il suo libro Diritti diversi, la legge negata ai gay, che ci ha fatto parlare di cose anche molto interessanti con delle testimonianze molto particolari. Vi ringrazio per questo. Roberta Giordano, se volete vi dà appuntamento domani alle 19. In ogni caso vi auguro uno splendido fine settimana.